Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'ultimo volume di Eclettica della settimana, quello di cui stiamo aprendo la copertina. È il volume numero 5. Al suo interno troverai tanta musica, troverai Ian McEwan, troverai anche Stanley Kubrick. Ogni pomeriggio, quando la città oltre le scure persiane verdi cominciava ad animarsi, Colin e Mary si svegliavano al metodico picchiettio degli arnesi d'acciaio contro le chiatte di ferro ormeggiate accanto al bar galleggiante del loro albergo. Al mattino i barconi rugginosi e butterati, senza alcun carico o mezzo di propulsione visibile, non c'erano più. Ricomparivano sul finire della giornata e gli uomini dell'equipaggio si mettevano inspiegabilmente all'opera con martello e scalpello. Era l'ora, nel caldo rannuvolato del tardo pomeriggio, che i clienti cominciavano ad affluire sul pontone per mangiare un gelato seduti ai tavolini di metallo, e anche le loro voci riempivano l'oscurità della stanza, sollevandosi e abbassandosi inondate di allegria e discordia, sommergendo i brevi silenzi tra un penetrante colpo di martello e l'altro. Si svegliarono simultaneamente, o questa fu la loro impressione, e restarono immobili sui letti separati. Per motivi che non era ormai possibile definire con chiarezza, Colin e Mary non si parlavano più. Questo era l'incipit di Cortesie per gli ospiti di Ian McEwan. weapon in the world is a Marine and his rifle. It is your killer instinct which must be harnessed if you expect to survive in combat. Your rifle is only a tool. It is a hard heart that kills. If your killer instincts are not clean and strong, you will hesitate at the moment of truth. You will not kill. You will become dead Marine. And then you will be in a world of shit. Because Marines are not allowed to die without permission. Essere onesti, non saprei che cosa dire. Non sei molto diverso, l'aspetto non può mentire. Forse hai perso la testa, ma se hai perso la testa, non hai perso niente. Quando Peter Fortune aveva 10 anni, i grandi dicevano che era un bambino difficile. Lui però non capiva in che senso. Non si sentiva per niente difficile. Non scaraventava le bottiglie del latte contro il muro del giardino. non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che fosse sangue, e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada, anche se ogni tanto aveva pensato di farlo. Mangiava di tutto, tranne, si intende, il pesce, le uova, il formaggio e tutte le verdure eccetto le patate. Non era più rumoroso, più sporco o più stupido degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia pallida e lentiginosa, facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante storie. Tormentava sua sorella, non più di quanto lei tormentasse lui. Nessun poliziotto era mai venuto a casa per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di farlo internare in un manicomio. Gli pareva, tutto sommato, di essere un tipo piuttosto facile. Che cosa c'era in lui di così complicato? Questo era l'incipit dell'Inventore dei Sogni, di Ian McEwan. Trying so hard to nearly not enjoy the feelings, but the pleasure and the calm are almost beyond my control. And then you touch me and my back straightens like a cat stroked the wrong way. Give me my whiskey bottle, give me the moist sliding pop as the cork squeaks out of the neck, releasing not the soft focus rustic gold of advertisers, but the male blood brotherhood of generations. Violent maudlin oblivion, and let me vomit until the dry raw wretches still my heaving soul as I kneel over the vitreous white of the altar in the whirling room, and unleash the hangover, bring not the light but the darkness of the morning, the holy mechanism of pleasure and my sin and guilt and self-loathing. Brimful in triple measure. Tante parole, soprattutto da parte di Ian McEwan, ma anche tanta musica all'interno di Eclettica. Il dettaglio, come sempre dico, lo trovate in playlist. Una prima indicazione la potrete avere alla fine di questo volume, grazie anche all'indice. Io mi prendo qualche secondo solo per annunciare il brano che sta per arrivare, visto che è di un gruppo che per più di un anno e mezzo circa, ha pubblicato tutta una serie di singoli e finalmente il 21 di maggio arriverà, grazie alla Infectious, al suo disco d'esordio. Loro vengono da Twickenham, un sobborgo a ovest di Londra, si chiamano Larrikin Love, da Edward Larrikin, che ne è il leader, e in anticipo rispetto a questo album di esordio, che si intitolerà The Freedom Spark, escono con un EP, A Day in the Life, titolo beatlesiano, dal quale ci ascoltiamo la prima delle cinque tracce, Well, Love Does Furnish a Life. Open up your eyes, you're underneath a third class seat. Your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. And feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. Well, now you're there and you laugh and smile so gleefully. There's an almost holy dancing in my soul, but tears on my cheeks. And life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. And life is tragic and small, 'cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. The young dear lover, she hit the ground. The summer out here had to bring her down. And in and out here and dirty old town, guess someone had to be lost. Because we kill everything we see. He plays his games, we play ours. To show our appreciation for so much power, we keep heaven packed with fresh souls. God was here before the Marine Corps, so you can give your heart to Jesus, but your ass belongs to the Corps. L'inizio è facile da individuare. Eravamo al sole, vicino a un cerro che ci proteggeva in parte da forti raffiche di vento. Io stavo inginocchiato sull'erba con un cavatappi in mano e Clarissa mi porgeva la bottiglia, un Domagos Sack del 1987. L'istante fu quello, quella, la bandierina sulla mappa del tempo, tesi la mano e, nel momento in cui il collo freddo e la stagnola nera mi sfioravano la pelle, udimmo le grida di un uomo. Ci voltammo a guardare dall'altra parte del prato e intuimmo il pericolo. L'attimo dopo correvo in quella direzione. Questo era l'incipit dell'Amore fatale di Ian McEwan. Thank you. Click.